Una notizia che ci lascia ovviamente pieni di rabbia, di delusione, di tristezza, perché significa ricominciare a lasciare bambini e bambine senza diritti anche a Milano. Chiaramente era, diciamo, una responsabilità politica che si era assunto il sindaco di Milano e che non è però, diciamo, condivisa da tutte le città italiane, quindi parliamo di una situazione molto circoscritta, ma parliamo anche di una grandissima città dove ci sono tantissime famiglie omogenitoriali, quindi è una battuta da arresto grave, pesante. In particolare il sindaco Sala stava cercando di colmare un vuoto legislativo. Sì, come prima di lui aveva fatto per prima poi Chiara Appendino a Torino, seguita da tanti sindaci e sindache italiane che si erano assunti come, diciamo, amministratori della città la responsabilità di non lasciare questi bambini e queste bambine senza diritti. Proprio perché c'è un vuoto in Italia, non c'è una legge che permette alle coppie dello stesso sesso di riconoscere i figli e le figlie alla nascita. Nel concreto, quali sono le conseguenze di questa mancata registrazione? Ma di fatto i bambini e le bambine in questo modo hanno un solo genitore legalmente riconosciuto, quando nella realtà dei fatti ne hanno due da sempre, da prima ancora che venissero al mondo, perché sono entrambi i genitori che hanno deciso che nascesse quella vita. Significa tutto quello che ha a che fare con la burocrazia, con le autorizzazioni, con le firme. Partiamo dalle cose più banali: poter andare a fare la vaccinazione a tuo figlio, poter andare a prendere a scuola tua figlia. Sei trattato al pari di una babysitter che ha bisogno di una delega per prendere il proprio figlio a scuola. Non puoi firmare il consenso informato per una cura salvavita. A me personalmente è successo di trovarmi in vacanza con un bambino di 2 anni, mio figlio, con una grave malattia, e in quel caso la cura salvavita poteva autorizzarla solo la mamma legale. Se fossi stata solo io con mio figlio in vacanza non avrei potuto salvare la vita a mio figlio. Parliamo di questo, parliamo dalle cose più banali quotidiane alle cose più gravi. Parliamo di non poter lasciare tutta l'eredità ai propri figli, perché una quota legittima potrebbe andare, anche se facciamo testamento, ai nostri eredi legali, se questo fosse impugnato, perché un terzo dei nostri beni magari potrebbe andare ai nostri genitori. Magari famiglie omofobe che hanno cacciato di casa i figli si ritrovano a reclamare eredità per sottrarle ai nipoti che non hanno mai riconosciuto. Parliamo di situazioni drammatiche, parliamo soprattutto in caso di separazioni conflittuali. La stepchild adoption si può fare solo con l'assenso del genitore legale, e in caso di separazioni conflittuali magari quell'assenso non avviene, non c'è, e quindi il genitore non riconosciuto, e succede, è successo e purtroppo succederà ancora, non potrà più vedere i propri figli, perché davanti a un tribunale tu sei un'estranea. E lo stesso in caso di morte. Abbiamo avuto situazioni drammatiche in cui la malattia e la morte del genitore legale ha lasciato i bambini e le bambine senza genitori, quando magari un genitore c'è, però non è riconosciuto. Parliamo di situazioni gravissime, e oggi leggere le dichiarazioni di consiglieri della Lega e di Fratelli d'Italia, del Comune di Milano, che si sentono soddisfatti, fieri di aver tolto diritti ai minori di questo paese, mi fa capire che si è toccato il fondo. Ma di certo non mi stupisce. Parliamo di persone che hanno guardato senza intervenire 70 persone morire di fronte alle coste della Calabria. Io ero a Steccato di Cutro sabato a portare anche la voce delle famiglie arcobaleno, perché o si difendono i bambini e le bambine, tutte e tutti, qualunque sia la loro formazione familiare, qualunque sia il modo in cui siamo venuti al mondo e qualunque sia il paese da cui vengono, oppure non si può continuare a blaterare di difesa della famiglia e di principi non negoziabili. L'unico principio non negoziabile è difendere le persone. Con l'attuale composizione del Parlamento e del Governo è difficile immaginare che questo vuoto legislativo venga colmato in modo giusto. Non me lo aspetto. Il problema è che, oltre a non aspettarmi che venga colmato, mi aspetto una continua, e l'hanno già iniziato a fare, sono su da pochi mesi, una continuo stillicidio, un continuo attacco a minare la stabilità e il benessere dei nostri bambini. Quando la ministra Roccella va in televisione a dire che gli psicologi hanno detto che per crescere bene un bambino ha bisogno di una mamma e di un papà, ci sono 30 anni di ricerche, l'ultima uscita da pochissime settimane, che la smentiscono e che dicono che il benessere dei bambini delle coppie omogenitoriali è pari e a volte anche superiore a quello delle coppie eterogenitoriali. Quello che non dice la ministra Roccella è che proprio la mancanza di diritti, è il minority stress e l'incertezza in cui vivono le famiglie famiglie che la notte dormono con un occhio aperto e uno chiuso a rendere la vita dei nostri figli più difficile di quella dei loro coetanei. E quindi la vergogna è questa, non solo non approvare una legge, ma anche fare in modo di rendere la nostra vita un inferno. Questo non è degno di un paese civile. Oggi bocceranno anche la proposta dell'Unione Europea di creare un certificato di nascita unico, e quindi non solo continueranno a minare i diritti dei nostri figli nati in Italia, ma mineranno anche i diritti dei bambini e delle bambine, delle famiglie omogenitoriali che nascono in Europa e che quando vengono in Italia non avranno più entrambi i genitori, perché il nostro governo è troppo fascista per riconoscerlo.